Nuova sigla, nuova puntata di Senza Frontiere e soprattutto nuova corrispondenza. Una corrispondenza che si aggiunge a quella da Berlino, Hone Grenzen, in questo caso da Valencia e più in generale dalla Spagna, e che per questa prima puntata vede una lunga intervista al collettivo, anzi alla rete dei collettivi valenziani Entre Barris, che si battono contro la gentrificazione, la speculazione edilizia e la turistificazione. Un'intervista appunto divisa in due parti, la prima questa settimana, la successiva la settimana prossima, e che vede tra l'altro un inserto musicale di un gruppo valenziano, Resilienza, insieme ad Antitesi e Gibici. Il pezzo si intitola ATAB, che è attinente al tema dell'intervista. Ricordiamo che Senza Frontiere, oltre che alla diretta alle 14.30 del lunedì, prevede anche una replica il mercoledì alle 17.30 e il giovedì sempre alle 14.30. I podcast di Senza Frontiere li trovate alla pagina podcast di Radio Wombat su wombat.loblogs.org, dove ci sono tutti i podcast di tutte le trasmissioni di Radio Wombat. Buon ascolto. Okay. Ciao Silvia. Ciao. Come stai? Bene, un po' nervosa il mio italiano. No, sicuro che andrà bene. Allora, cominciamo. Tu fai parte di Entre Barris, che sì, è questo coordinamento di collettivi che si è creato a Valencia un anno e mezzo fa. Sì. Ci spieghi cos'è Entre Barris? È un gruppo di collettivi, di quartiere e anche di persone che volevano trattare o preoccuparsi per l'abitaggio. Sì, il turismo, la casa. Sì, ma non il turismo solo, anche altri problemi, no, della città di Valencia, ma sempre con le case, no, con dove abitiamo. Certo. Sì, perché di pochi anni fa adesso il prezzo delle case sono in aumento. Sì, è aumentato. Sono aumentato. E allora è difficile trovare un luogo dove vivere, e questo si fa più difficile ancora per la situazione lavorale, no, delle persone. Le persone che lavorano. Sì. Parli di prezzo di affitti. Sì, esatto, di prezzo di affitti, perché la Spagna, no, è un paese dove sempre si ha comprato le case, no? non si affittavano, cioè, molte. E allora adesso abbiamo una situazione un po' complessa, perché sono pochi case dove puoi affittare, e le poche che sono di banchi o immobiliari. Allora questo sono i gruppi che fanno il prezzo dell'affitto. Come nasce Entre Barris? Credo che si trovano due o tre barri che sono quartieri che sono preoccupati per queste cose, e hanno parlato hanno visto che era veramente un problema, e hanno chiamato altri quartieri, altre persone, e hanno visto veramente questo, no? che preoccupava non solamente a questi due o tre barri, quartieri, sino che era un problema di tutta la città, no? E il prezzo dell'habitat, della casa, il turismo, non so, queste due, no? Sì, principalmente. Sì. La gentrificazione, sì. Entre Barris, non l'abbiamo detto, significa tra quartieri. Che tipo di città vuole Entre Barris? Quando vi chiedono che volete, sì, quale città volete? Sì, perché Entre Barris dice dall'inizio siempre dice que vuole cambiare, no, il modello di città. E allora questo significa più o meno che vogliamo una città per noi, no, per chi vive qui, chi l'abita e non per chi viene 4 o 5 giorni a visitarla. E anche una città sostenibile, no? Che non vogliamo grandi progetti che distruggano la terra, e anche che tutte le persone possano vivere con i suoi soldi, no? Come stipendio. Sì, esatto. Non che devono dormire alla strada. Perché si parla che il turismo è una cosa che porta soldi, che rispondete a questa. Bene, qui a Valencia è sempre, bueno, è la Mediterranea, no? In generale, Italia. Anche sì, sicuramente hanno stato, no, come i luoghi dove si va di vacanze, no, dove l'economia di questi paesi città, ok, siano come fatto a partire, no, del turismo, no? Il turismo è stato come il motore centrale, che porta, certo. Sì, esatto. Allora, questo turismo con l'entrata del cambio di governo qui a Valencia, più di sinistra, ha cambiato un po', ma non avviene, ossia ha cambiato la forma di questo turismo, ma si è incrementato, no? Allora questo discorso di cambiare il turismo è quasi che non è andato bene, è stato peggio, e questo turismo sta cambiando la città, no? La città o tutto il paese, no? Allora, questo turismo si dice che porta benefici, no? Che porta soldi, ricchezza, sì, o lavoro, ma si vede, no? Questo si vede anche a Mallorca o Barcellona, come due città, credo che lo domandi, due città che sono turistificati, molto turistificati, si vede che questi lavori che portano il turismo non sono buon lavoro, no? Sono lavori che precari, esatto, che portano situazioni difficili, no? Perché devi fare molte ore per pochi soldi, o devi fare due o tre lavori per poter andare bene, o lavori solamente 6 mesi perché sono le vacanze e il sole, no? E quando questo finisce vai via, no? Allora non sono lavori stabili che ti permettano fare la tua vita, no? Svilupparti, sviluppare la tua vita, esatto. O fare dei progetti, esatto, sono molto precari. Allora questo turismo si deve vedere che sta portando veramente, no? E no questo che dicano ipotesi. Valencia, pensi che Valencia sia una città più turistica di altre città dello Stato spagnolo? Ce ne sono altre che già hanno... Sì, questo è che diceva, no? Valencia credo che è turistica. Si vedi le statistiche dei voli, hanno aumentato moltissimo in questi 2 anni, e si vede che poco a poco aumenta il turismo, no? Ma non è la più turistica, sino, come detto, le isole, no? Balears, certo, le Baleari. Le Baleari, concretamente Mallorca, no? Come una delle più affettati per questo, e Barcellona anche, no? E dopo ci sono altre città, ma io credo che queste due sono le più affettate per questo. Antítesis GBG, el cabanyal, des de València, amb resiliència, rebrotant rap sense perdre l'esperança. Te pots trobar desorientat, l'exploració no és un plan, la guia a la mà i el guia al davant, és un descobriment planificat i et busca, el que ha vist a la revista, la resta, sincerament li rellisca, tresca. Per reserves d'oci adquirint el negoci d'una vida trista. Malgrat l'hospitalitat d'algun venut, gran part de la societat li escup. Puja la mensualitat de cada pis llogat i el veí del quart ho intenta i no se'n surt. És València i Barcelona consumint barris, places i persones, gentrificacions compartides, però també la lluita per les nostres vides. Estem a Sants amb els nostres germans, Antítesi, GBG, el Cabanyal. Des de València, amb resiliència, rebrotant rap sense perdre l'esperança. Una ciutat farsa, no queda paciència, aquests especuladors demanen clemència, tant de guiri cansa, recuperem la plaça. Yo, com és? All turistes bastards. De gran en el barri, plans de despatx, invertís en espoli, tenen que guanyar. La pela és la vela, la vida és la vela, la vergonya, tota ciutat és la vela. L'especulació és la norma, en una ciutat denuda, en una ciutat morta. Es convertim en fotos per a Instagram, que la pobresa no et fota una postal. Ens han furtat Denia, ens han furtat Benidorm, ens han furtat les illes Mostallal i el Mongo. Suport mutu, batallar el futur. Pensen expulsar-nos però saben que no es pot fer res, sindicat de Jokerters. Andant de guiri no és, veuen els carrers, hanguen amb volquer, explotant pels aires, ja no es veu la mar. Andar creuer en flames i té que ser frustrant. Anar de viatger i ser un guiri al remat. Estem a Sants amb els nostres germans, Antítesi, GBG, el Cabanyal. Des de València, amb resiliència, rebrotant rap sense perdre l'esperança. Una ciutat farsa, no queda paciència, aquests especuladors demanen clemència, tant de guiri cansa, recuperem la plaça. Yo, com és? All turistes bastards. Amb resiliència, Antítesi, soltant frases, la flaire dels barris de Vallcarca canvies. No veus viatgers? Tots són turistes, la massa ens escombra, ciutats mortes. Busquem inspiració, dispensaris, medicines al Raval, murals pel Juan Andrés, la ciutat repressiva, el panocti vigilat, girem per robador i l'urbana de ronda. El forat de la vergonya, la dignitat feta a fons, fem una mitjana, parlem de canviar el món. I xerrant, xerrant, se'n recorden del Marc Serra i el gol que li clava la penya a la directa. Encaixem el trencaclos, que és un fotograma a cada pas, la ciutat un llibre obert si la saps mirar. Respira el beat, captura l'instant i cau la tarda entre versos a un balcó de Sants. Estem a Sants amb els nostres germans, Antítesi, GBG, el Cabanyal. Des de València, amb resiliència, rebrotant rap sense perdre l'esperança. Una ciutat farsa, no queda paciència, aquests especuladors demanen clemència, també guiri cansa, recuperem la plaça. Yo, com és? All turistes bastards. Quali sono i quartieri di Valencia più colpiti dal turismo? Adesso i quartieri del centro, no? Come Ciutat Vella, dove c'è il casco antico, no? Sì, il centro storico. E anche Ruzafa, che era e fa 3-4 anni. Era un, 4 anni fa? Sì, 4 anni fa. Era un quartiere abbastanza umile. Ma questo ha cambiato, no? Per questo della turistificazione, cambiare le tende di sempre per bari. I negozi sempre per bar o pub. Esatto, pub o questo. E allora tutto questo ha cambiato e questo quartiere in questo 2 o 3 anni ha cambiato tutto e il prezzo delle case hanno aumentato moltissimo siano trasformati. No, questi due sono come adesso i quartieri che lo stanno vivendo questa turistificazione, no? Ma il Cabañal, che è un quartiere che ha sofferto molte aggressioni da parte dell'antico governo della città, è stato come la prima fase della gentrificazione, e adesso si trovano come questa seconda o terza fase di aumentare il valore di questo quartiere. E allora molte immobiliarie, molte gruppi, fondi di investimento stanno comprando lì case, molte case, no? E il governo anche lo sta facendo bello, no? Come per cambiare le strade, eccetera. Marciapiedi. Sì, anche si vedono più commerci, pub, bari, eccetera. Allora, adesso il Cabañal o la Malvarrosa, che sono vicino al mare, a un metro. Due passi dal mare. Sì, due passi dal mare. Stanno, adesso sono come un punto di investimento per questi gruppi e per il turismo, no? Questi processi che stai parlando riguardano anche l'intera città? Puoi farci altri quartieri? È come che la turistificazione affetta questi quartieri, no? Chiaro, tutta la città non può stare in questo, io credo, certo. No, non lo so, ma adesso non sta, e non credo che tutta la città poteva stare in questo sviluppo, sì, processo di turistificazione, non credo, perché devi avere altri quartieri dove viviamo, no? Ma giustamente che questi quartieri siano svuotati di persone che vivono lì, fa che queste persone si debbano andare a altri quartieri più economici. Ma questo quartiere più economici ricevono queste persone che hanno un capitale di soldi più alto che queste persone. Allora si va contagiando anche, no? Questo, il turismo affetta questi quartieri principalmente, ma questo è come che si contaccia. Certo. L'Airbnb, no? Si è parlato tanto di Airbnb, che poteva essere quando nacque, no? questa piattaforma in cui tu mettevi a disposizione una stanza della tua casa per far entrare un po' di soldi, e veniva utilizzato molto. Alla fine si è scoperto altro. Come il fenomeno Airbnb sta influenzando i prezzi degli affitti a Valencia? Si deve parlare di Airbnb come un fattore più, no? Perché non è dei mezzi di comunicazione si parla molto del turismo, eccetera, ma dell'Airbnb, e già sta parlando come che cosa succede con questo, no? È vero che fa che il prezzo sia in aumento, no? Perché, sì, perché molte case che adesso vivono, che ieri vivevano persone, adesso già no, no? Perché sono per turisti. Allora questa casa che tu la puoi affittare per 400-500 euro. Adesso la puoi affittare per questo, ma in una settimana, no? Cioè Airbnb, una settimana di Airbnb, sì, sono 400 euro, esatto. Mentre prima era un mese. Esatto. Allora, ma si vede che, bueno, non so, non, si vede che non è per una persona normalmente, sino che una persona ha diverse case, che, no, che, le proprie, che i proprietari non sono proprietari di una casa che volevano compartire la sua stanza, no. Normalmente si vede perché sono pochi proprietari che hanno e molte proprietà. Molte proprietà, sì. Pochi proprietari che hanno in mano queste esatto. cose. Cioè non è... allora, sì, sta facendo che salga il prezzo delle case. Ma, come detto, non è la unica, no? È l'unico fattore, certo. Sennò che, come detto prima, sono anche gli immobiliari e i fondi di investimenti che stanno comprando moltissime case, e anche i banchi, no? Perché con la crisi e questa di qui, della racciola, del mattone. E hanno molte case adesso sono delle banche, no? E allora no, non è l'Airbnb. Esatto. Ci sono dati specifici su quanti appartamenti turistici ci sono a Valencia? Avete dei dati specifici? Adesso non lo no? Ma Entre Vari ha fatto scritti degli studi. Studi di questo, e Spaivina del Cabañal anche. Abbiamo fatto un'investigazione, si può vedere nella pagina dell'Airbnb anche. Certo. Si va alla pagina, si vede, ma si vede la crescita. La crescita. In un anno, di fa 3 anni, credo, che sempre sta in crescita, no? non c'è stabile o non bassa, certo. Sempre sta in crescita, sì, sempre. Allora, dobbiamo vedere questo, perché se sempre va in crescita, non sappiamo quando finirà. Quando finirà, no? Quando si fermerà. Entre Bari è interessante perché questa unione di collettivi non è soltanto, no, una piattaforma che dice no, ma ci sono anche delle proposte. Quali misure per affrontare il problema, per esempio, degli affitti così alti, delle Airbnb, Spencer Entre Barris? Si hanno fatto 5 punti, ma per questo per poter vivere, no? Si dice che si deve fare da parte dell'amministrazione, si deve fare qualcosa, no? Perché adesso il problema è che non si fa niente, no? Allora abbiamo d'una parte i contratti di affitto, che qui sono per 3 anni massimo, e allora questi affitti non ti danno stabilità, perché in 3 anni ti deve andare via. Il massimo che si può firmare è per 3 anni, non puoi firmare più di 3 anni. No, e con questi 3 anni ti possono alzare l'affitto, no? Ma non un 10%, un 15%, no. In qualsiasi sì, modo. Esatto, quello che vogliono. Allora, questa legge di affitto si deve vedere bene come sta affettando, no, alle persone che affittano, perché non abbiamo nessun diritto, no? Si deve vedere come si fa in altri paesi, o fare quello che vogliamo, no? Che per dare questo diritto, no? D'una parte, per cominciare. Anche si parla di... Baco. Anche Entre Barris parla di cooperative d'abitacci. Non so come... Sì, cooperative di case. Di case. Case cooperative. Ok, case cooperative, che ci siano di molti tipi, no? Diversi. Allora si deve vedere alle città quali sono queste cooperative che vanno meglio, no? In diversi casi. Ma è un'altra possibilità, no? Per non avere sempre l'affitto o la compra o il soldi al centro, no? Altra possibilità o domanda è che passa con i beni di le proprietà, no? E di... Che succede con le proprietà delle persone, queste che stanno comprando? No, mi riferisco al parco pubblico. Certo, no? Perché come... che succede con le proprietà, esatto, del comune o, del, comune o della regione? Esatto. Che succede con questo? Se hai, che cosa si sta facendo? Perché non si stanno abilitando facilitando, sì, le cose perché le persone più povere, sì, poveri, con meno soldi, insomma, sì, l'esclusione sociale, sì, eccetera, possano vivere in una casa, no? Perché adesso la situazione è che se il banco, il proprietario, il banco, il fondo di investimento, qualcuno di questi, o l'immobiliare, qualcuno di questi, se ti acaba il contratto e finisce il contratto o non paghi o qualcosa, perché non puoi, non perché non vuoi, vai via, dell'amministrazione del comune non sono soluzioni come veloce, no? Perché queste persone non rimangono in casa, sì, esatto, certo. Allora queste sono come misure che si devono vedere già, no? Come alcune cose che parla entre barri. Anche questo che vediamo, no, della sostenibilità e la terra, perché Valencia è una città che ha una storia di orta, non so, sì, di orti urbani, e come questo si deve conservare, no, come dargli la importanza che deve. Il merito. Sì, il merito che deve. Allora, non ha cambiato molto la proposta del comune, perché da fatto volevano costruire più case. Certo. Hanno case che non vive nessuna persona, sono vuote, e anche volete costruire più case perché il comune ha detto che è la soluzione, no? Perché sono viventi sociali o... Ma se tu hai case vuote, che fai, no? È un po' la domanda che si fa anche entre barri, no? Non so se avete... Perché pensate che Valencia stia diventando una città turistica? Perché c'è questo modello di turistificazione a Valencia? Io penso che per il clima, no? Il clima è buonissimo, allora per il nord d'Europa, no, che sono le persone che hanno capitale e che possano viaggiare e fare questo, non so, è un attrattivo, no? Più attrattiva. E anche penso che per la nuova politica del comune da adesso, del governo, della Generalità, che della regione. Sì, della regione, che sta mettendo al centro questo del turismo, no? come avevamo detto, come motore economico, no? Un po' come il centro. O non si parla d'altra cosa, no? Il turismo, la cultura, no? Ma no. Non ha cambiato questo con questo nuovo governo o la sinistra.